Basta chiamare, sapere la propria posizione fiscale e fare tutto in 448. In Canada ci sono, si fa sapere sempre il sole, funzionari amichevoli, guai a chi fa il furbo, però tutto trasparente. Gli Stati Uniti al 61esimo posto, l'Australia 47esimo, il Giappone 123esimo, la Cina 125esimo, ci sopravanza nettamente. Noi siamo 136esimo, peggio di noi ci sono l'Argentina, il Brasile, l'India. Ma poca roba, eh? Per il resto siamo 136esimi. C'è molto anche sugli attacchi alla Chiesa. Oggi, mannaggia, il tempo è volato, non ho letto. Leggeremo dopo, magari approfondiremo gli attacchi alla Chiesa, lo scandalo pedofilia. Questo è il nostro sondaggio. Secondo voi sono attacchi veri e propri alla Chiesa? C'è un attacco strumentale in corso alla Chiesa oppure sono casi veri, conclamati? Eccoci alle 8 e 20 minuti in questo istante, ben ritrovati al momento dell'economia. Soldi e dintorni. Buongiorno a Deborah Rosciani. Ciao Alessandro, buongiorno a tutti. Riparte la settimana. Riparte la settimana, siamo qua. Eccoci. Stessa spiaggia, stesso mare. Allora, stessi argomenti, purtroppo, anche stamattina Soldi e dintorni affrontiamo un tema che è già passato al nostro setaccio, ma date le numerose notizie che hanno riguardato il settore delle carte revolving nelle ultime ore, oggi ci ritorniamo con un doppio appuntamento. Questa mattina a Soldi e dintorni e poi un bel nutrito approfondimento anche a Salvadanaio alle 12, per cui Alessandro lo anticipo già e non lo faremo alla fine l'anticipazione. Allora, cosa è successo? Che giovedì scorso, venerdì, l'argomento era davvero su tutte le pagine di tutti i giornali. Banca d'Italia ha fatto sapere di aver disposto lo stop alle emissioni di carte di credito per American Express nel nostro paese. Un provvedimento che segue una serie di controlli che sono stati effettuati sulla società nell'ambito di un'indagine aperta dalla Procura di Trani. Oggi poi vi racconteremo anche qualche dettaglio in più rispetto a questa inchiesta. Di fatto si è appreso appunto che le modalità di funzionamento di queste carte, ma noi lo avevamo raccontato molte volte, non sono per niente trasparenti, i tassi di interesse applicati sfiorano i limiti dell'usura, pertanto lo stop alle carte di American Express. Ma la notizia è che per la verità in settembre era stato disposto il blocco anche per le carte di un altro gruppo, Diners, poi qui la situazione è rientrata. Nelle ultime ore si è appreso che anche un'altra società, Fiditalia di Société Générale, ha avuto lo stesso provvedimento, lo stesso blocco per una carta, Eureka, che poi è stato parzialmente revocato. E allora tutto questo ci impone di ritornare sull'argomento per capire che diavoleria sono queste carte, anche se adesso sono molto meno diffuse degli anni passati e c'è un po' più di attenzione anche nella loro attivazione da parte dei consumatori che se la vedono recapitare a casa, perché il tema è proprio questo: come ci si imbattono i consumatori. Maria Stella Anastasi, avvocato, vicepresidente della Lega Consumatori, consulente legale per il comparto bancario e finanziario, è la nostra donna, la nostra consulente molto frequente su questo argomento. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, a queste aziende la Banca d'Italia fa questi rilievi, in sostanza carenze sotto tre profili: usura, antiriciclaggio, questo è un ambito poi particolarmente complesso, e trasparenza. Il grosso problema proprio di queste carte è come arrivano nelle mani dei consumatori, avvocato. Questo è l'aspetto sul quale voi avete sempre con grande attenzione puntato il dito. Ma sì, sicuramente, perché le modalità quali sono? Tendenzialmente arrivano al consumatore che ha già ottenuto un finanziamento per credito al consumo e successivamente a questo finanziamento viene recapitata questa carta a casa per posta, così senza che ovviamente il cliente l'abbia richiesta precedentemente, anche perché ovviamente la carta revolving è una carta che, oltre alle funzionalità di tutte le normali carte a saldo, ha comunque un prestito incorporato che ovviamente deve essere attivata, ma che una volta attivata di fatto comporta un nuovo finanziamento. Quindi questa modalità di invio a casa e soprattutto la scarsa trasparenza è quello che noi abbiamo sempre imputato alle società, alle finanziarie che emettono queste carte, cioè la scarsa trasparenza con la quale in un primo momento la carta viene inviata e sicuramente il contratto che regola questa carta non è mai stato molto trasparente. E come diceva lei, le associazioni dei consumatori in questi anni hanno sempre segnalato questa anomalia. L'abbiamo segnalata anche a Banca d'Italia. Mi interessava precisare che comunque Banca d'Italia aveva già avviato delle istruttorie e aveva già comminato delle condanne ad altre società che erogano credito al consumo per problematiche analoghe. Quindi, però un provvedimento così serio di addirittura come questo, stop all'emissione, certo, che ha pure certo. un risvolto penale certamente, mm-hmm. questo ha anche un risvolto penale certamente, mm-hmm. questo sicuramente. No, volevo ricordare che per Amex, American Express, lo stop all'emissione di nuove carte è partito dal 12 aprile, infatti in questi giorni anche il collega del Sole 24 Ore, Maximilian Cellino, ha provato a sentire al call center del gruppo, che peraltro ha fatto anche una grande campagna pubblicitaria per specificare che tutte le carte in circolazione di credito regolari continuano naturalmente a funzionare regolarmente, quindi qui si tratta di uno specifico pacchetto di prodotti, appunto le revolving, quindi blocco per Amex da 12 aprile. Le carte invece dell'altro gruppo oggetto dell'inchiesta, Diners, erano state bloccate in settembre, poi tutto è rientrato e qui non ci sono, nell'ambito appunto dell'attività di questa società, carte revolving. E poi c'è Fiditalia, su questo torneremo oggi a Salvadanaio, ma avvocato Anastasi, le chiedo, per esempio la questione di Diners risale a settembre, esce però in maniera dirompente in questo momento esattamente insieme a quella di American Express. Secondo lei può esserci qualche motivo dietro l'uscita così dirompente di questa notizia? È un monito, secondo lei, a tutte le finanziarie per adottare un profilo di maggiore trasparenza verso la clientela? Colpirne poche per colpirle tutte? Ma può essere? non sarei così non sarei così radicale. In realtà credo, ribadisco, che le indagini sono in corso, a mio avviso Banca d'Italia e altre autorità, lo stesso antitrust a cui noi associazioni abbiamo chiesto più volte di prendere in esame tutte le società che emettono carte di credito, credo che ci stiano lavorando da tempo, quindi la vicenda, come diceva lei, di Trump, ovviamente più grave perché ha anche dei risvolti penali, ma a livello proprio di indagine da parte di altre autorità, come dicevo poco fa, credo che non sia da ora che si sta verificando, e questo anche proprio perché, ribadisco, le associazioni hanno sempre segnalato questi casi alle autorità competenti, è un nostro preciso dovere farlo, e quindi ribadisco, io non credo che ci sia la volontà di colpire qualcuno in particolare. Un monito, no. Una sorta di moral suasion, chiamiamola così all'inglese, azione morale di dissuasione, di persuasione. Se così fosse, ma io credo che in realtà ci sia molto di più probabilmente, non ci sia soltanto una volontà di moral suasion, va benissimo, ci mancherebbe, ma credo che le verifiche che sono state effettuate abbiano rilevato delle irregolarità abbastanza pesanti, e quindi certo. In realtà non è una volontà di colpire, ma è una volontà semplicemente di fare chiarezza. Certo, e soprattutto, certo, avvocato, ci mancano 30 secondi, diamo l'ultimo consiglio ai nostri consumatori all'ascolto, poi devo ridare la linea ad Alessandro Milan, qualora ci arrivi in casa una carta naturalmente corredata di tutte le condizioni, insomma, a quale voci dobbiamo prestare particolarmente attenzione, magari prima di, se anche fossimo tentati di attivarla, perché magari comunque abbiamo capito la sua dinamica, il suo funzionamento, ci interessa attivare questo prestito. In 3 secondi un piccolo suggerimento. Sì, stare molto attenti a quella che è, come dire, il tasso applicato su questa carta, e comunque controllare in ogni caso che soprattutto sono penalizzati i ritardati pagamenti, cioè ecco. Sui ritardati pagamenti che si applicano questi interessi che hanno visto i periti, appunto, delle procure hanno visto lievitare addirittura oltre, ma molto oltre le soglie d'usura previste dalla Banca d'Italia. Benissimo, ecco, quindi ritardati pagamenti. Mm-hmm. Sì. Benissimo, grazie. Grazie all'avvocato Anastasi, ci risentiamo presto, intanto buona giornata. A presto. Alessandro, quindi hai capito a mezzogiorno che cosa faccio? Posso già salutarti. Buona giornata. Eccoci qui alle 8:34 minuti, ben ritrovati in diretta. Allora è il momento del nostro sondaggio. Vogliamo parlare di chiesa, vogliamo parlare delle accuse di pedofilia, ma soprattutto, insomma, delle accuse di omertà che piovono da più parti del mondo nei confronti del Vaticano. Vi chiediamo molto semplicemente nel nostro sondaggio di oggi: secondo voi è in atto un attacco strumentale nei confronti della Chiesa? Il sondaggio. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Insomma, da più da tempo ormai si accumulano i casi di presunti scandali che vengono tirati fuori, alcuni per la verità riferiti a diversi anni fa. Vi chiediamo questo, radio24.it per votare, e già sono oltre 2000 i voti arrivati. C'è da dire che per ora prevalgono i no, il 62%, non è in corso un attacco strumentale nei confronti della Chiesa. Chi non la pensa così, cioè chi pensa che sia un attacco nei confronti della Chiesa, almeno stando a una intervista di qualche giorno fa, è la professoressa Lucetta Scaraffia, che ritrovo con piacere. Professoressa, buongiorno. Buongiorno. La professoressa Scaraffia insegna storia contemporanea alla Sapienza, scrive anche sull'Osservatore Romano. Perché sarebbe in atto un attacco, e da parte di chi, professoressa? Ma guardi, io non credo che nel complotto, naturalmente. No, credo un complotto in una no. Ostilità nei confronti della Chiesa. E il perché? Motivo per cui ritengo che sia un attacco, diciamo, è che non è che nel mondo sia alzata una indignazione, che secondo me sarebbe giustissima, contro la pedofilia, non è che si è deciso di fare una battaglia, una pulizia rispetto ai pedofili in generale, e quindi anche e a maggior ragione rispetto ai pedofili preti, che sarebbe giustissimo. Non so se vede che gli unici pedofili che vengono additati, denunciati dai giornali eccetera, sono i sacerdoti, mentre c'è, come lei sa benissimo, in corso una grande fetta del turismo importante dal punto di vista economico, che è turismo sessuale nei paesi asiatici. E nessuno su quello dice una parola, si guadagnano dei soldi, si va in clandestinità, su quello nessuno denuncia. Si denuncia poi gli abusi nel mondo dello sport, che sono molti, gli abusi nelle famiglie. Allora, non è una battaglia contro la pedofilia, ecco, da questo si capisce che è una battaglia contro la pedofilia. Però non è come ieri il Cardinal Bagnasco, intervistato da Gianni Riotta, il direttore del Sole 24 Ore, ha detto, insomma, queste violenze commesse da una persona consacrata acquistano una gravità ancora maggiore, forse anche quello è lo sdegno. Ma questo è giustissimo, però ci sono anche delle forme, diciamo così, esasperate anche nel tirar fuori violenze di molti anni fa, di persone che adesso sono in prigione. Poi io trovo particolarmente fuori luogo attaccare per questo obiettivo Benedetto XVI, che è stato sicuramente l'esponente della gerarchia ecclesiastica che da sempre ha tenuto una battaglia durissima contro la pedofilia, da quando era alla Congregazione della Fede, a soprattutto quando ha potuto farlo con più libertà, da quando era Papa. Si pensi solo alla battaglia che ha fatto contro il fondatore, perché venissero a galla, insomma, venisse denunciato il fondatore dei Legionari di Cristo. Ora, lei sa che non è una cosa da poco denunciare pubblicamente il fondatore di una delle congregazioni più importanti, fiorenti e ricche della Chiesa, cioè... Sì, padre Masial, che sì. Le accuse nei cui confronti erano già emerse qualche anno prima, insomma, no, erano pontificato... state messe a tacere, però. Sì, esatto, sotto il pontificato di Papa Wojtyła, e che però sono emerse per volontà esplicita, insomma, di Benedetto XVI. Quindi una persona che accetta di mettere in discussione una congregazione importantissima della Chiesa Cattolica, cioè, vuol dire che non guarda nulla di fronte alla pedofilia. Insomma, c'è un attacco alla Chiesa. Tra l'altro, la stanno ascoltando, io li voglio salutare, anche Marco Politi, buongiorno, è vaticanista del Fatto Quotidiano. Buongiorno Politi e benvenuto. Così come voglio salutare Don Fortunato Di Noto, buongiorno Don Di Noto, che è fondatore e presidente dell'associazione Meter. Allora, Politi, due considerazioni. La prima è questa: ieri sul Fatto Quotidiano appare questo articolo, lo spettro delle dimissioni per Papa Ratzinger. Secondo lei è un attacco nei confronti della Chiesa, e perché lo spettro delle dimissioni addirittura? Io ho voluto soltanto segnalare che questo fatto assolutamente inaudito, che si era posto in epoca attuale, cosa che nessuno aveva mai pensato, tranne questioni di malattia, è stato agitato in America questo spettro delle dimissioni, ma che ci dà il senso della gravità della crisi. È stata proprio la professoressa Scaraffia ad usare per la prima volta sull'Osservatore Romano, in un suo articolo, il termine omertà. Allora, perché la Chiesa è oggi particolarmente presa d'attenzione, non d'attacco ma d'attenzione? Perché è verissimo che il 70% dei fatti di pedofilia avvengono nelle famiglie, è verissimo anche che c'è il turismo sessuale, su cui sarebbe bene per esempio che l'Europa complessivamente prendesse un'iniziativa. Però la Chiesa, che si pone come superpotenza morale dell'umanità, del mondo, così fu definita subito dopo il crollo del muro di Berlino, è chiaro che ponendosi come più alta autorità educativa, come più alta autorità morale, come un'istituzione che parla costantemente di purezza, poi deve rispondere delle sue azioni. E noi sappiamo che c'è stato un sistema di omertà per anni. Quando la professoressa Scaraffia diceva che le accuse contro padre Maciel sono state messe a tacere prima che il cardinale Ratzinger e poi Papa Ratzinger potesse intervenire, questo ci dà il senso di come anche all'interno del Vaticano, quindi nel cuore dell'organismo di governo della Santa Sede, c'erano invece forze, personalità interessate a non scoperchiare questi crimini. Il Patriarca di Venezia ha detto che bisogna rendere conto dei misfatti senza esitazioni e senza minimizzazioni. Però, ecco, è chiaro che questo processo però è una cosa a valanga, è cominciato 10 anni fa in America, poi in Irlanda, poi in Germania, adesso si chiede anche conto di quello che è successo. Non durante il pontificato di Papa Ratzinger, che certamente è determinatissimo, coraggioso e coerente su questo punto, ma quello che è anche successo prima nei cassetti e negli archivi vaticani. Mi sembra una richiesta giusta dell'opinione pubblica. Politici, aiuti a capire quello che oggi chi compra un giornale potrà trovare. Per esempio, io lo leggo dal Corriere della Sera, alcune frasi che peraltro sono state smentite, però chi l'ha intervistato ha detto: se ci sfidate su questo punto, mettiamo a disposizione l'audio. Monsignor Giacomo Babini, vescovo emerito di Grosseto, avrebbe dichiarato questo a un sito internet, Pontifex, che appunto ha detto: non sfidateci a smentire, perché sennò mettiamo l'audio. Un attacco sionista, vista la potenza e la raffinatezza. Ecco cos'è lo scandalo pedofilia. Non vogliono la Chiesa, loro sono gli ebrei ovviamente, ne sono nemici naturali. In fondo, storicamente parlando, i giudei sono deicidi. Non crediate che Hitler fosse solo pazzo, la verità è che il furore criminale nazista si scatenò per gli eccessi e le malversazioni economiche degli ebrei che strozzarono l'economia tedesca. Ripeto, smentite, non ho mai rilasciato queste dichiarazioni, però questo è. Siamo anche a questo livello di scontro, Politi? Dunque vorrei fare una premessa: io non ho nessuna stima per il sito Pontifex, sì, e quindi non intendo commentare, ma non da oggi, non intendo proprio commentare quello che esce su Pontifex. Posso però dire che avevo già sentito, anche nelle settimane passate, ogni tanto affiorare a mezza bocca l'accusa che New York Times fosse anche teatro di un'offensiva proveniente da ambienti ebraici. Ecco, io credo che con questi fantasmi, o anche con il vittimismo che noi abbiamo visto nel discorso del cardinale Sodano, che sull'Osservatore Romano ha detto che la Chiesa è sotto attacco, oggi Benedetto XVI, ieri Pio XII, il modernismo, insomma una storia di 150 anni di attacchi alla Chiesa, con il vittimismo non si arriva da nessuna parte. Il cardinale di Edimburgo ha detto che il fatto che anche questi fatti di pedofilia avvengano altrove non è una consolazione. Qui c'è un problema che è sotto gli occhi di tutti e che va con coraggio fino in fondo svelato, portando anche all'apertura degli archivi per quello che riguarda gli anni 80-90. Ci sono queste lettere, sì, del vescovo di Auckland all'allora cardinale Ratzinger, che danno da pensare. Allora, la professoressa Scaraffia ha detto ovviamente quello che si dice sempre, cioè, ed è giusto, non è solo la pedofilia, anzi è molto marginalmente negli ambienti ecclesiastici. E questa è la denuncia che Don Di Noto, anche lei, sta portando avanti da tempo. Cioè, come mai si parla solo di questo? È questa però una strategia difensiva per dire c'è un attacco strumentale in corso nei confronti della Chiesa, Don Di Noto? Ma non è un fatto semplicemente per la questione strumentale, e né tantomeno pensare di difendere l'indifendibile, assolutamente. Io già nel 96, proprio con Gianni Riotta, a suo tempo parlai di queste cose, quindi stiamo parlando già di quasi 15 anni fa. Il discorso è un altro, e poi il sottoscritto con Meter, noi lottiamo la pedofilia, aiutiamo le vittime, denunciamo migliaia di siti, proprio in questi giorni. E questo è quello che fa paura. In questi giorni noi abbiamo dato denunce formali, molto formali, alle procure distrettuali, alla polizia postale. Non c'è stato un quotidiano che abbia riportato queste denunce formali di gravità inaudita. Cioè, lei dice, solo se si parla di preti fa notizia, se no. Ecco, solo se si parla di preti. Allora, ciò non significa che la Chiesa non si sta assumendo, io spero che lo faccia sempre di più, delle responsabilità, i vescovi che hanno eventualmente coperto, che non hanno affrontato i problemi, che si assumino le proprie responsabilità. I sacerdoti che hanno fatto questi abomini, che si assumono le proprie responsabilità, non soltanto da un punto di vista morale, ma perché no? Io inviterei le persone a denunciare i fatti. Certo, il problema poi è un fatto tecnico, possiamo denunciare a livello morale, ed è giusto che si faccia, poi a livello sostanziale le vittime, dopo 20 anni, dopo 30 anni, che denunciano non potranno mai avere una soddisfazione di giustizia, tra virgolette, umana. Non a caso in Italia un reato di abuso sessuale va in prescrizione a distanza di 10 anni. Quindi, allora, è vero come è vero che la Chiesa, ed è giusto che lo faccia, lo deve fare, perché noi dobbiamo splendere anche nella verità, cose che a volte accade. Mi dia una percentuale, Don Di Noto, perché lei fa sempre anche molto, molti ci chiedono, date una percentuale, cioè quanti sono gli abusi secondo lei conclamati, magari sui quali, o che dovranno emergere, che coinvolgono sacerdoti? Io parlo soltanto dell'ultimo rapporto ufficiale americano in questo caso, quando parla di 68.000 abusi avvenuti da persone che non sono religiose, soltanto lo 0,03% di clero, questo la dice lunga, cioè significa che c'è il problema, che ci sono preti che devono essere condannati, individuati, responsabilmente ridotti allo stato laicale se si assumono delle responsabilità formali, quindi non c'è una mia difesa di nessuno, assolutamente, però è anche vero che la percentuale dice questo. Cioè, dobbiamo anche dirle queste cose, poi che c'è un problema attualmente, che uno si alza la mattina e dica che è un attacco sionista, io non ci credo. No, vabbè, ma questo, cioè, io voglio vedere, poi vedremo se ci sarà o meno quest'audio, se fosse vero, è chiaro, sono dichiarazioni assolutamente fuori di senno, ma voglio dire, poi bisogna vedere se queste dichiarazioni ci siano state oppure no. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? C'è un attacco strumentale alla Chiesa, questo ci chiediamo oggi, ovviamente riguardo ai casi di pedofilia che starebbero emergendo ormai da più tempo. Professoressa Scaraffia, oggi Adriano Prosperi su Repubblica scrive: la scelta ormai non è riguardante la minuta casistica dei preti pedofili, ma la scelta se puntare a una verità senza veli oppure far prevalere una sorta di ragion di Chiesa, una sorta di ragion di Stato. Lei ha già detto che secondo lei c'è stata, soprattutto con Benedetto XVI, un'apertura per la verità. Eppure la sensazione, l'accusa che fanno molti è proprio questa, cioè l'idea che la Chiesa tenda in qualche modo a trattare privatamente, anche a volte a insabbiare, questi casi nel passato, nel presente, quando emergano. Ma intanto i casi sono stati quasi sempre insabbiati a livello locale e non a livello, diciamo, vaticano. Dopodiché è anche, diciamo così, orribile dirsi, è una cosa vergognosa, però comprensibile conoscendo gli esseri umani. In questi casi si tratta di responsabilità individuali, come si tratta di responsabilità individuale le sciocchezze che ha detto, forse, speriamo di no, l'arcivescovo di Grosseto. Cioè, anche nella Chiesa ognuno ha le sue responsabilità individuali. Se un sacerdote uccide qualcuno, finisce in galera perché lui è responsabile, non la Chiesa. Cioè, la cosa che io trovo, che queste persone che hanno insabbiato siano assolutamente da condannare e vergognosamente, io non ho alcun dubbio. Ho dei dubbi che vada attaccato il Papa Ratzinger, che è stato quello, tra l'altro, che, come tutti ricorderanno, nella Via Crucis che ha preceduto di qualche giorno la morte di Giovanni Paolo II, aveva proprio parlato di sporcizia nella Chiesa che era necessario estirpare. Però le chiedo, perché questa tendenza, se vuole a livello locale, si è verificata in passato, a insabbiare, perché? Guardi, io però vorrei ricordarle una cosa, non la giustifico, le faccio presente, sono una storica, io voglio dire, io la trovo vergognosa e ignobile, anche perché sono una donna e credo che le donne, rispetto alle molestie sessuali, alle violenze sessuali, abbiano una sensibilità ancora più forte di quella degli uomini e più rifiuto di quella degli uomini. Però le vorrei ricordare che storicamente nella cultura generale della società normalmente si insabbiavano, nelle famiglie, mai sentito sentito denunciare uno zio, denunciare un amico di famiglia per molestie sessuali. Come se fosse una parrocchia, certo. Dice, ecco, con la parrocchia come se fosse una famiglia, cioè si instaura un rapporto quasi padre-figlio. Era molto peggio, voglio dire, era molto peggio, però la tendenza era quella di magari fare una strapazzata alla persona, questo diceva non lo farò più, scioccamente, perché poi l'avrebbe rifatto, gli si dava retta e si evitava di portarlo. Vorrei fare un caso che lei avrà letto sui giornali, a cui si è dato pochissimo risalto, tra l'altro, mentre si è dato un risalto enorme a tutte le molestie sessuali avvenute in ambienti ecclesiastici, di questa scuola laica vicino a Francoforte, una scuola che aveva il patrocinio dell'UNESCO, importantissima, dove, una delle scuole d'élite della Germania, dove ci sono stati abusi sessuali per 30 anni e ci sono state anche delle denunce dal 71 in poi, e le denunce non sono mai state accolte, ci sono state insabbiate tutte, fino a che non è arrivata, mi sembra nel 2007 proprio, una preside donna, la quale ha preso le denunce e l'ha portata alla magistratura. Ora vorrei dire, era anche perché era una preside donna, secondo me, sì. Però anche perché negli anni 70 era abbastanza normale, 70-80, era uso normale queste denunce, non dico insabbiare dal punto di vista, diciamo così, della magistratura, sì, sì, ma magari risolverle all'interno. Ribadiamo, lei dice uso normale, che non è giustificativo, anzi è no, una condanna, però io sono, purtroppo io sono era così da questo fatto, però le stavo facendo come storica, certo. Le stavo raccontando dei quello degli che succedeva. Sentiamo all'800 24 00 24 un ascoltatore, perché tanti stanno chiamando, ma scegliamo lui. Massimiliano da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io vorrei dire solo una cosa rispetto a Ratzinger. Diciamo che se io commetto un omicidio e ad esempio mio padre o mia madre mi copre, anche loro vengono incriminati, no? Invece sono uscite le lettere anche su Repubblica Online, sì. In cui si vede benissimo che alla domanda del vescovo locale di che fine dovesse fare questo prete, se doveva essere se a questo dovevano essere tolti i sacramenti o no, per il bene superiore della Chiesa, così queste sono le parole che ha usato l'allora cardinale Ratzinger, ha detto non solo di non condannarlo, no, ma neanche di togliergli i sacramenti. No, non ha detto proprio così, ma Marco Politi adesso ci aiuterà, anche se sono le lettere più critiche, non ha, è un po' tranchant la sua lettura, Massimiliano, ha detto che ci vuole un approfondito caso, però Politi, quella è una lettera certo che fa molto discutere, no? Sì, è una lettera che fa discutere, perché lì il caso era chiarissimo, perché questo prete pedofilo era già stato condannato. E chiedeva lui, tra l'altro, chiedeva lui da solo di andarsene dalla chiesa, e allora il vescovo locale scrive alla congregazione della dottrina della fede diretta dal cardinale Ratzinger di dare seguito a questa richiesta. La risposta è che ci vuole un esame più approfondito, più accurato, e non c'è niente da fare più accurato, perché uno che è già stato condannato a 3 anni per atti di pedofilia veramente non c'è da esaminare nulla. E poi nella lettera c'è scritto di tener conto del bene della Chiesa universale e di ciò che potrebbe danneggiare la parrocchia, questo scandalo, e naturalmente il vescovo risponde che è molto più scandaloso che il prete rimanga piuttosto che il prete che se ne vada. Io credo personalmente che anche l'arcivescovo Ratzinger, il cardinale Ratzinger, abbia avuto una sua evoluzione, perché era immerso all'inizio in un clima che era quello di una omertà collettiva, non si tratta soltanto di singole mele marce, c'è l'istituzione che ha coperto a livello locale, come ricordava la professoressa Scarafia, ha coperto a livello centrale, come abbiamo visto con il caso dei legionari di Cristo, e quindi credo che la linea oggi di Papa Ratzinger sia quella che toglie di mezzo qualsiasi equivoco, perché Papa Ratzinger nella sua lettera agli irlandesi, che ha un valore universale, non si è fermato sulle statistiche, non ha detto anche gli altri hanno colpi o no, ha detto una cosa fondamentale: voi vittime non siete state ascoltate. Pensiamo per esempio a Firenze, in casa nostra, ci sono volute anni e anni perché delle vittime riuscissero a farsi sentire dall'arcivescovo di Firenze. Il Papa ha detto: voi vittime non siete state ascoltate, voi vescovi non avete fatto il vostro dovere, e io in nome della Chiesa, quindi ha detto lui proprio, io in nome della Chiesa provo vergogna e rimorso. Ecco, io credo che bisogna partire da lì per fare piena pulizia, perché la domanda non è: c'è oggi qualcuno che attacca la Chiesa? Secondo me la domanda è: le vittime hanno diritto ad avere giustizia, anche se sono passate 10 anni, 20 anni, 30 anni, ed è una giustizia solo morale, Ecco, hanno diritto? Io credo di sì. Il sondaggio che avete fatto sul 62% che nega l'attacco coincide esattamente col 62% dell'Istituto Piepoli di pochi giorni fa che diceva la maggioranza non approva l'operato della Chiesa e del Papa in questo momento. Siamo meno scientifici, questo dobbiamo dire, è un sondaggio molto spurio, la gente va sul sito, vota una volta sola, comunque insomma mi fa piacere insomma, che rispecchia questo sondaggio che io infatti avevo anche letto, citato anche da lei. Mi devo fermare, ringrazio Marco Politi del Fatto Quotidiano, la professoressa Lucetta Scaraffia e Don Fortunato Di Noto. Potete ancora votare grazie anche a Sara Spreafico in redazione con Peter Bescapè in regia. E allora do la linea come al solito a Oscar Giannino. Noi, ricordando la mail bianco o nero @radio24.it, ci troviamo domattina alle 7.30.